Tutto ebbe luogo una sera del marzo successivo alla morte di Mrs. Hamley. Roger si trovava a Cambridge, anche Osborne era stato lontano da casa e non aveva offerto alcune informazioni in merito alla propria assenza. Lo Squire credeva che fosse stato a Cambridge con il fratello o a Londra. Gli sarebbe piaciuto apprendere dove si fosse recato, cosa avesse fatto e che avesse visto, tanto per sapere, tanto per distrarsi dalle preoccupazioni domestiche che lo opprimevano insistentemente. Ma era troppo orgoglioso per fare domande e Osborne non gli aveva comunicato i particolari del suo viaggio. Tale silenzio aveva aggravato l'intima insoddisfazione dello Squire, che un paio di giorni dopo il ritorno di Osborne era rincasato per cena stanco e con il cuore afflitto. Erano giusto le 6 ed egli entrò rapidamente nel suo ufficio al piano terreno. Dopo essersi lavato le mani, si recò in sala da pranzo pensando di essere molto in ritardo, ma la trovò vuota. Gettò un'occhiata sull'orologio appeso sopra la mensola del camino, tentando di scaldarsi le mani presso le fiamme. Il fuoco era stato trascurato e durante il giorno si era spento. Fu alimentato con del legno mezzo secco che crepitò e fece fumo invece di fare il suo dovere divampando e donando calore alla stanza, attraversata da un vento pungente che si infiltrava dappertutto. L'orologio si era fermato. Nessuno si era ricordato di ricaricarlo. Ma secondo quello dello Squire l'ora di cena era passata. L'anziano maggiordomo fece capolino, ma vedendo che il padrone era solo, stava per indietreggiare e aspettare Mr. Osborne prima di annunciare la cena. Aveva sperato di passare inosservato, ma lo Squire lo colse sul fatto. «Perché non è pronto?» gridò tagliente. «Sono le 6:10 e di grazia! Perché usate questa legna? È impossibile scaldarsi con un fuoco come questo!» Credo, signore, che Thomas. Non parlatemi di Thomas, portatemi subito alla cena. Passarono 5 minuti, che lo squire affamato trascorse sfogando tutti i possibili segni dell'impazienza. Se la prese con Thomas, entrato a controllare il fuoco. Attizzò i ceppi, spargendo scintille, ma diminuendo considerevolmente le loro possibilità di sprigionare calore, mettendo mano alle candele che gli sembravano emanare una luce insolitamente insufficiente per quell'ampia stanza fredda. Mentre agiva così, Osborne fece il suo ingresso, vestito di tutto punto per la sera. Si muoveva sempre con lentezza e questo per cominciare dava sui nervi allo Squire. Dopodiché, a cospetto dell'abbigliamento preciso di Osborne, suo padre fu colto dalla fastidiosa presa di coscienza della propria ruvida giacca nera, dei pantaloni trasandati, della cravatta a quadri di cotone e degli stivali insaccherati. Decise di giudicare Osborne affettato e troppo agghindato. Ed era sul punto di uscirsene con un commento quando il maggiordomo, che aveva aspettato che Osborne scendesse prima di annunciare la cena, entrò per informargli che era pronta. «Non sono mica le 6!» disse Osborne, estraendo il suo delicato orologino. Era cosciente poco meno del suo orologio della tempesta che si stava preparando. «Le 6! Sono passate le 6:15!» grugnì suo padre. Credo che il vostro orologio sia sbagliato, signore. Ho sincronizzato il mio solo 2 giorni fa con quello del House Guards. Ora, contestare il vecchio e fedele orologio a forma di rapa dello Squire era uno di quegli insulti che, per quanto non potesse ragionevolmente offendere, non poteva essere perdonato. Quell'orologio gli era stato donato da suo padre quando gli orologi erano orologi tanto tempo fa. Aveva regolato le lancette della casa, delle stalle, delle cucine e ai suoi tempi persino quelle della chiesa di Hamley. E ora, con tutta la sua rispettabile anzianità, doveva essere dileggiato da quel minuscolo e sfrontato aggeggino francese che sarebbe entrato nel taschino di un panciotto, invece di dover essere cavato fuori a viva forza da una tasca della cintura, come tutti gli orologi venerandi per dimensione e per rango? No, neanche se quell'impertinente avesse ricevuto l'appoggio di tutti gli Horse Guards della storia o persino dei reggimenti di Life Guards. Il povero Osborne avrebbe dovuto stare più attento a non macchiare la reputazione della carne e del sangue di suo padre, perché era questa l'importanza che egli attribuiva al proprio orologio. «Il mio orologio è come me», dichiarò lo Squire, stizzito come dicono gli scozzesi. Brutto ma puntuale, e comunque sia detta le leggi in questa casa. Il re può andare dagli Horse Guards se gli aggrada. Vi chiedo perdono, signore, si scusò Osborne, veramente ansioso di mantenere la pace. Ho badato al mio, che segna sicuramente l'ora giusta perché è sincronizzato con Londra. Non avevo idea che mi stesse aspettando, altrimenti mi sarei vestito molto più in fretta. Direi, commentò lo squire, squadrando sarcasticamente l'abbigliamento del figlio. Quando ero giovane, mi sarei vergognato di trascorrere così tanto tempo davanti allo specchio, come se fossi stata una ragazza. Quando andavo a un ballo, a una festa, dove avrei probabilmente incontrato delle signorine graziose, sapevo essere elegantissimo. Ma mi sarei fatto beffe di me stesso se mi fossi ritrovato a gingillarmi davanti allo specchio, sorridendo per il mio aspetto tutto compiaciuto di me stesso. Osborne arrossì, ed era sul punto di lasciar cadere un'osservazione caustica sui vestiti che il padre indossava in quel momento, ma si limitò a dire, abbassando la voce: Mia madre si aspettava sempre che ci cambiassimo per cena. Ho preso questa abitudine per farla contenta e la rispetto anche adesso. Era vero che egli si manteneva leale al ricordo di lei, obbedendo a tutte le piccole abitudini e ai costumi domestici che aveva istituito e aveva dimostrato di preferire, ma il contrasto che lo squire credette di ritrovare nelle parole di Osborne lo fece uscire di senno. E anch'io. Tentò di rispettare i suoi desideri. Lo faccio e in cose più importanti. Lo facevo quando era viva e lo faccio ora. Non ho mai detto il contrario, precisò Osborne, allibito per le parole e i modi irruenti del padre. Sì, invece, signore, è quello che intendavate. E l'ho letto in faccia. Ho visto come guardavate la mia giacca da mattina. In ogni caso, nel corso della sua vita, io non ho mai trascurato un suo desiderio. Se avesse voluto che tornasse a scuola e imparassi il mio ABC, l'avrei fatto l'avrei fatto. E non mi sarei perso a giocare, a oziare, perché avrei avuto paura di farla soffrire, di deluderla. Eppure certa gente che ha superato l'età della scuola. Qui lo squire sembrò soffocare, ma anche se le sue parole non vollero uscire, la sua aggressività non diminuì. Non permetterò che voi parliate con me dei desideri di vostra madre, signore. Voi che alla fine le avete quasi spezzato il cuore. Osborne era fortemente tentato di alzarsi e lasciare la stanza. Forse sarebbe stato meglio, forse questo avrebbe poi portato a una spiegazione, a una riconciliazione tra padre e figlio. Invece, egli pensò di far bene a restare seduto in silenzio e a fingere indifferenza. Questa incuranza rispetto a ciò che stava dicendo sembrò irritare ancora di più lo squire, che continuò a brontolare e a parlare tra sé e sé finché Osborne, incapace di sopportare ulteriormente, disse con molta pacatezza, ma anche amaramente: Per voi io sono stato solo un fastidio e questa casa non è più una casa per me, bensì un luogo in cui sono tenuto sotto controllo per delle inezie. E redarguito a proposito di sciocchezze, come se fossi un bambino. Fate in modo che possa avere qualcosa di cui vivere. Questo il vostro figlio maggiore ha il diritto di chiedervelo. E allora io lascerò questa casa e voi non sarete più infortunato dai miei vestiti o dalla mia mancanza di puntualità. Avanzate questa richiesta proprio come un altro figlio fece tanto tempo fa. Datemi la parte che mi spetta. Ma ciò che gli fece di quel denaro. Non mi incoraggia granché a. Poi egli fu frenato dal pensiero di quanto limitata fosse la parte che poteva concedere al figlio. Osborne riprese la parola. Sono prontissimo a guadagnarmi da vivere, solo che l'apprendistato per un professionista costa, io denaro non ne ho. Non ne ho neanch'io, replicò lo squire secco. E allora come si fa? Chiese Osborne, credendo solo in parte alle parole del padre. Beh, dovete imparare a restare a casa e a non intraprendere viaggi costosi e dovete pagare i conti del sarto. Non vi chiedo di aiutarmi nell'amministrazione della proprietà, siete un gentiluomo troppo delicato per questo, ma se non potete guadagnare denaro, almeno fate in modo di non spenderne. Vi ho detto che sono del tutto disposto a guadagnarmi il pane, esclamò Osborne con impeto finalmente. Ma come posso riuscirci? Siete davvero irragionevole, signore. Ah, sì! Fece lo squire più calmo all'apparenza, ma non nelle emozioni, mentre Osborne si scaldava. Non mi atteggio a essere ragionevole. È probabile che gli uomini costretti a pagare soldi che non hanno per colpa di figli stravaganti non lo siano. Due sono le cose che avete commesso e che mi fanno perdere le staffe quando ci ripenso. Al college vi siete rivelato una specie di somaro, quando invece la vostra povera madre pensava così bene di voi. E voi avreste potuto compiacerle, gratificarla così tanto se aveste voluto e... Beh, l'altra cosa non la dico. Ditela, signore, disse Osborne, quasi senza fiato all'idea che il padre avesse scoperto il suo matrimonio segreto. L'uomo invece pensava ai prestatori di denaro che stavano facendo calcoli sul momento in cui Osborne avrebbe ereditato la proprietà. No! Si impuntò lo squire. Io so quello che so e non ho intenzione di dirvi cosa so. Dico solo questo. I vostri amici non sanno riconoscere un pezzo di buon legno quando lo vedono. Più di quanto voi e io sappiamo come fare a farvi guadagnare 5 sterline se questo dovesse salvarvi dal morire di fame. Ora, c'è Roger. Nessuno di noi ha mai sprecato parole su di lui. Ma avrà il suo incarico ora che io lo autorizzerò e sarà vescovo, cancelliere e non so che prima che ci accorgiamo che è intelligente. Noi siamo stati così impegnati a pensare a voi. Non so perché mi sia venuto da dire noi, noi in questo modo, proseguì, abbassando all'improvviso la voce a un tristissimo cambiamento di intensità. Avrei dovuto dire io. Sarà per sempre io a questo mondo. Si alzò. E lasciò la stanza di scatto, rovesciando la sedia senza fermarsi a sistemarla. Osborne, che da un po' era seduto con la mano sugli occhi, li sollevò quando udì il rumore e poi si mise in piedi altrettanto rapidamente e seguì in fretta il padre, giusto in tempo per sentire, quando raggiunse la porta dello studio, che egli la chiudeva a chiave dall'interno. Osborne tornò in sala da pranzo mortificato e avvilito. Ma era sempre attento alle negligenze delle regole usuali che avrebbero potuto suscitare delle osservazioni. E pur con il cuore gonfio, si curò di sollevare la sedia caduta e rimetterla al suo posto in fondo al tavolo. E poi si preoccupò di smuovere il cibo sui piatti per far apparire che fossero stati toccati, prima di suonare il campanello e chiamare Robinson. Quando quest'ultimo entrò, seguito da Thomas, Osborne ritenne necessario informarlo che il padre non si sentiva bene e che si era ritirato nello studio. E di non desiderare il dessert, bensì una tazza di caffè in salotto. L'anziano maggiordomo fece uscire Thomas e si avvicinò a Osborne con fare confidenziale. Anch'io ho pensato che il padrone non fosse proprio in sé prima di cena, Mr. Osborne, dunque l'ho giustificato, sì. Ha parlato con Thomas a proposito del fuoco, signore, e questo è un fatto che non posso spiegarmi se non a causa di un malessere. Cosa che sono sempre disposto a scusare. Perché mio padre non dovrebbe parlare con Thomas? Chiese Osborne. Ma forse gli ha parlato con rabbia, oserei dire. Sono sicuro che non sta bene. No, mister Osborne, non è questo. Anch'io sono incline all'ira e per la mia età godo di una salute eccellente. Oltretutto, la rabbia a Thomas fa bene. Ne ha proprio bisogno. Solo che questa rabbia dovrebbe arrivare dalla persona giusta, cioè da me, Mr. Osborne. Io so qual è il mio posto e conosco i miei diritti e i miei doveri, come tutti i maggiordomi che siano vissuti. Ed è dovere mio, non del padrone, sgridare Thomas. Il padrone avrebbe dovuto dire: Robinson, dovete parlare con Thomas che ha trascurato il fuoco e allora io mi sarei fatto sentire, come farò del resto. Ma come ho detto, giustifico il padrone. Perché è agitato nella mente, tormentato dalla cattiva salute. Perciò mi sono persuaso a non dare il preavviso, come avrei di sicuro fatto in circostanze più felici. Veramente, Robinson, credo che tutto questo sia privo di senso, dichiarò Osborne, stanco della lunga storia che Robinson gli aveva raccontato e a cui non aveva badato neanche per metà. Che significato potrà mai avere se mio padre parla con voi o con Thomas? Portatemi il caffè in salotto e non vi disturbate a sgridare Thomas. Robinson si congedò, offeso per il fatto che le sue lagnanze fossero state definite insensate. Negli intervalli della sua strigliata a Thomas, continuò a borbottare tra sé e sé. Le cose sono molto cambiate da quando la povera signora se n'è andata. Non ho dubbi che il padrone soffra, ne sono sicuro. Era una donna che portava sempre il dovuto rispetto al ruolo di maggiordomo e avrebbe compreso quanto egli possa rimanere offeso. Lei non avrebbe mai detto che le sue lamentele fossero insensate. Lei no, e neanche Mr. Roger. Lui è un giovane allegro, gli piace tantissimo portare in casa creature sporche e viscide, ma ha sempre una parola gentile per un uomo che si sia sentito ferito. Vi saprebbe allietare lo squire e gli impedirebbe di essere così contrariato e triste. Vorrei proprio che Mr. Roger fosse qui. Il povero squire, chiuso in compagnia del suo dolore e del suo pessimo umore nello studio squallido e tetro, in cui trascorreva porzioni sempre più lunghe delle sue giornate spese in casa, rimuginò sulle sue preoccupazioni e sui suoi guai finché ne fu sopraffatto, come uno scoiattolo che abbia continuato a girare e girare dentro una gabbia. Aveva tirato fuori i diari e i libri mastri e stava calcolando gli arretrati degli affitti, e ogni volta la somma risultava diversa. Avrebbe pianto come un bambino sulle sue addizioni. Era esausto e stanco, furibondo e deluso. Alla fine chiuse i libri con un colpo. «Sto invecchiando», disse, «e la mia testa è meno lucida di un tempo. Penso che il dolore per lei mi abbia intontito. Non sono mai stato un granché. Ma lei aveva un'alta opinione di me, sia benedetta, non mi permetteva mai di definirmi stupido, però io sono stupido. Osborne dovrebbe aiutarmi, ha ricevuto abbastanza denaro per la sua istruzione e invece se ne viene giù vestito come un damerino e non si pone proprio il problema di come io possa pagare i suoi debiti. Vorrei avergli detto di guadagnarsi da vivere facendo il maestro di danza. Continuò lo squire, sorridendo tristemente della propria ironia. Si veste come uno di loro e nessuno sa come abbia speso quei soldi. Forse un giorno Roger si presenterà con una folla di creditori alle calcagna. Ma no, non Roger. Sarà anche lento, ma è leale, è il vecchio Roger. Vorrei che fosse qui. Non è il maggiore, ma si interessa alla proprietà e li farebbe lui per me questi conti fastidiosi. Vorrei che Roger fosse qui. Capitolo 23. Osborne Hamley rivede le sue posizioni. Osborne sorbì in salotto la sua solitaria tazza di caffè. Anche lui era molto infelice a suo modo. Rimase in piedi sul tappetino di fronte al focolare a riflettere sulla sua situazione. Non sapeva esattamente fino a che punto il padre avesse bisogno di denaro contante. Lo squire non gli aveva mai parlato dell'argomento senza arrabbiarsi e molte delle sue frasi sconnesse e contraddittorie, le quali tuttavia, per quanto discordanti, erano tutte basate sulla verità, il figlio le attribuiva ai parossismi della sua passionalità. Ma per un giovane dell'età di Osborne era piuttosto disagevole sentirsi continuamente ostacolato dalla mancanza di una banconota da 5 sterline. Le principali forniture per la generosa, quasi lussuosa mensa di Hamley Hall erano prodotte nella tenuta. Perciò, fin tanto che la proprietà rendeva, non c'era apparenza di povertà. E se Osborne si fosse accontentato di stare a casa, avrebbe avuto tutto ciò che desiderava. Ma egli aveva una moglie da qualche altra parte, voleva vederla continuamente e aveva bisogno di spostarsi. Lei, poveretta, necessitava di mantenimento. Da dove potevano arrivare i soldi per i viaggi e per le modeste esigenze di Emè? In questo momento era questo il pensiero a tormentare la mente di Osborne. Finché era stato al college, la sua rendita, in qualità di erede degli Hamley, era stata di 300, mentre Roger aveva dovuto accontentarsi di un centinaio in meno. Le elargizioni annuali di questa somma avevano causato parecchie difficoltà allo squire. Ma egli le aveva ritenute semplicemente un problema temporaneo, forse irragionevolmente. Osborne avrebbe dovuto raggiungere vette gloriose, prendere voti altissimi, ottenere un titolo accademico, sposare un erede di radiante colignaggio, vivere in alcune delle numerose stanze vuote di Hamley Hall e aiutare lo squire nell'amministrazione della proprietà che un giorno sarebbe stata sua. Roger sarebbe diventato un ecclesiastico. Il leale e lento Roger era perfetto per quella posizione e dopo il suo rifiuto di entrare nella chiesa, preferendo una vita più attiva e avventurosa, Roger sarebbe potuto diventare qualsiasi cosa. Era un tipo capace e pratico e adatto a tutte quelle attività da cui Osborne era escluso a causa del suo essere schizzinoso e del suo pseudogenio. Di conseguenza era un bene che fosse il figlio maggiore perché non avrebbe mai dovuto farsi strada a forza nel mondo. E in merito a intraprendere una professione, sarebbe stato come tagliare mattoni con un rasoio. Ed ora? Eccolo qui, Osborne, a vivere a casa, desiderando però trovarsi altrove. La sua rendita si era definitivamente estinta. In verità, negli ultimi 2 anni i versamenti erano stati puntuali solo grazie agli sforzi di sua madre, ma riguardo la loro attuale interruzione, padre e figlio non si erano scambiati una parola. Le questioni economiche erano un argomento troppo doloroso per entrambi. Ogni tanto lo squire gli allungava una banconota da 10 o giù di lì, ma la sorta di ringhio soffocato con cui consegnava quei soldi e l'assoluta incertezza su quanto gli sarebbero stati restituiti rendevano vago e indefinito qualsiasi calcolo basato sul loro rientro. Cosa mai potrei fare per assicurarmi un introito? Pensava Osborne, in piedi sul tappetino di fronte al focolare, con la schiena rivolta alle fiamme vivaci e il caffè servito in una preziosa e antica porcellana che apparteneva a Hamley Hall da generazioni. E gli abiti distinti, come tutti gli abiti di Osborne, non mancavano di essere. Sarebbe stato difficile pensare che quell'elegante giovanotto nel mezzo di comodità che rasentavano il lusso stesse rimuginando su un qualunque grave problema. Ma era così. Cosa posso fare per essere certo di ottenere delle entrate? Le cose non possono andare avanti in questo modo. Ho bisogno di aiuto per 2 o 3 anni. Anche se entrassi al Temple o al Lincoln's Inn. Sarebbe impossibile vivere con il salario dell'esercito e poi odierei quella professione. Per la verità ci sono magagne in tutti i mestieri, non potrei accettare di diventare il rappresentante di nessun impiego di cui abbia sentito parlare. Forse la cosa più adatta a me è prendere gli ordini, ma essere costretto a scrivere sermoni ogni settimana, anche se non ho niente da dire. Ed essere destinato probabilmente ad associarmi solo a gente inferiore a me per finezza e istruzione. Però la povera Amy deve ricevere del denaro. È insopportabile paragonare le cene di qui, stracolme di arrosti e selvaggine dolci, che Morgan insiste a mandar su con le due minuscole costolette di montone di Amy. Eppure, cosa direbbe mio padre se sapesse che ho sposato una francese? Con l'umore che si ritrova, mi disrederebbe, se potesse, e le parlerebbe in un modo che non tollererei. Cattolica oltretutto, beh, non me ne pento, lo rifarei. Se solo mia madre fosse stata in salute, avesse sentito la mia storia e conosciuto, ahimè. Per come stanno le cose, deve restare un segreto. Ma i soldi, dove li prendo? Dove li prendo? Allora, gli sovvennero le sue poesie. Avrebbero venduto? Gli avrebbero procurato denaro? A dispetto di Milton, egli pensava di sì, e andò a prendere i suoi manoscritti nella sua stanza. Sedette accanto al fuoco, tentando di studiarli con occhio critico e di interpretare l'opinione pubblica per quanto gli era possibile. Aveva cambiato il proprio stile dai tempi di Mrs. Hernance. Nel suo talento poetico, egli era essenzialmente un emulatore. E di recente aveva seguito la strada di un celebre sonettista. Sfogliò i propri componimenti. Nella sua vita erano quasi equivalenti a un passo autobiografico. Mettendoli in ordine, suonavano così: ad Aimè che cammina con un bambino, ad Aimè che canta lavorando, ad Aimè che si allontana da me mentre dichiaro il mio amore, la confessione di Aimè, Aimè disperata, la terra straniera dove dimora la mia Aimè. La fede nuziale, la moglie. Quando giunse all'ultimo sonetto, ripose la pila di carte e iniziò a pensare. La moglie. Sì, una moglie francese e una moglie cattolica, una moglie che si sarebbe potuto dire era stata a servizio. E l'odio di suo padre nei confronti dei francesi, sia come collettività che come individui. Come collettività perché erano brutali e rivoltosi ribaldi che avevano assassinato il loro re e commesso tutti i generi di sanguinose atrocità. Come individui? Perché rappresentati da Bonnet e dalle varie caricature di Johnny Crépeau, circolata abbondantemente circa 25 anni prima, quando lo squire era giovane e suscettibile. Il merito e la religione in seno alla quale la signora Osborne Hamley era stata educata è sufficiente dire che alcuni politici avevano iniziato a parlare di emancipazione dei cattolici e che alla sola idea, l'astioso ruggito della maggioranza degli inglesi stava montando in lontananza con terribili minacce. La sola menzione di questo provvedimento in presenza dello Squire era, e Osborne lo sapeva bene, come sventolare una bandiera rossa di fronte a un toro. Poi egli rifletté che se Aimée avesse goduto dell'indicibile e incomparabile benedizione di nascere da genitori inglesi, nel cuore stesso dell'Inghilterra, per esempio il Warwickshire, e non avesse mai sentito nominare preti, messe o confessioni né il Papa né Guy Fawkes, bensì fosse stata data alla luce, battezzata e cresciuta nella Chiesa anglicana, senza aver mai visto neanche l'esterno di una sala per le riunioni dei dissenzienti o di una cappella papista, pur contando su tutti questi vantaggi, il fatto che fosse stata, come si traduceva bonne in inglese, governante dei bambini? Era un termine appena inventato. Una bambinaia che percepiva lo stipendio trimestralmente, che poteva essere licenziata con un mese di preavviso e riceveva tè e zucchero quasi come elemosina. Sarebbe stato un colpo per l'antico orgoglio ancestrale di suo padre, un colpo dal quale non si sarebbe forse mai ripreso. Se la vedesse, pensò Osborne, se solo potesse vederla. Ma se lo squire avesse visto Aimée, l'avrebbe anche sentita parlare il suo inglese incespicante, così prezioso per suo marito, perché in quella sua laboriosa lingua inglese lei aveva confessato di amarlo con un cuore francese. E lo squire Hamley si piccava di essere un convinto nemico dei francesi. Lei sarebbe per mio padre una figliola così amorevole, dolce e docile. Potrebbe benissimo arrivare a riempire il vuoto che c'è in questa casa, se solo lui l'accettasse. Ma non lo farà, non lo farebbe mai e non avrà l'opportunità di respingerla. Però, se io la chiamassi Lucy in questi sonetti, se queste poesie facessero sensazione, venissero elogiate nella Black Hood e nella Quarterly e tutto il mondo fosse ansioso di conoscerne l'autore e io raccontassi a mio padre il mio segreto, se avessi successo, lo potrei fare, allora io credo che lui chiederebbe chi è Lucy e io gli racconterei tutto se... Come detesto i se. Se io non avessi se. La mia vita era basata sui quando, che prima si sono trasformati in se e poi sono svaniti. Era quando Osborne otterrà la lode e poi se Osborne... E infine un fallimento completo. Ho detto ahimè. Quando mia madre ti vedrà, e invece ora dico, se mio padre la vedesse, con una prospettiva molto debole che questo possa mai accadere. Così egli lasciò le ore di quella sera trascorrere e sparire in queste fantasticherie, approdando all'improvvisa decisione di tentare le sorti della sua poesia con un editore, aspettandosi subito di farci dei soldi e immagino anche, in caso di successo, che la sua opera avrebbe compiuto meraviglie con suo padre. Quando Roger tornò a casa, Osborne non lasciò passare un solo giorno prima di rivelargli il suo progetto. Non nascondeva mai nulla a lungo al fratello. La parte femminile del suo carattere gli faceva sempre desiderare di avere un confidente e la comprensione più dolce che ne potesse suscitare. Però l'opinione di Roger non aveva alcun effetto sulle azioni di Osborne e questo Roger lo sapeva benissimo. Così, quando Osborne cominciò, voglio il tuo consiglio su un'idea che ho in testa, Roger replicò. Qualcuno mi ha detto che il motto del duca di Wellington era di non dare mai consigli, a meno di imporre che fossero seguiti. Ora, io questo non lo posso fare, e tu sai, vecchio mio, che non badi mai ai miei consigli quando li ottieni. Non sempre, lo so. Non quando non concordano con la mia opinione. Stai pensando al fatto che tengo nascosto il mio matrimonio, ma non sei informato su tutte le circostanze. Tu sai che avrei avuto la piena intenzione di farlo se non fosse stato per tutto il chiasso sui miei debiti e poi la malattia e la morte della mamma. E adesso non hai idea di come sia cambiato nostro padre, come è diventato irritabile. Aspetta di essere stato a casa una settimana. Robinson, Morgan, è lo stesso con tutti, ma il comportamento peggiore ce l'ha con me. Poveretto, disse Roger, ho pensato che avesse un aspetto terribilmente mutato. Raggrinzito e la sua carnagione non è più rossa come una volta. Beh, non fa neanche la metà dell'esercizio cui era abituato, quindi non c'è da stupirsi. Ha congedato tutti gli uomini impegnati nei nuovi lavori che lo interessavano così tanto, e da quando un giorno il Roano ha fatto un passo falso e l'ha quasi disarcionato, non vuole più cavalcarlo e non vuole neppure venderlo per comprarne un altro, che sarebbe la cosa più semplice e saggia. Dunque abbiamo due cavalli vecchi che si abbuffano, mentre lui non fa che parlare di soldi e di spese. E questo mi porta a ciò che volevo dire. Ho un disperato bisogno di denaro. Così ho raccolto le mie poesie, le ho ripulite, capisci? Le ho riviste con occhio critico, insomma. E voglio sapere se tu pensi che Dayton le pubblicherebbe. Ti sei fatto un nome a Cambridge, ecco, e direi che lui le prenderebbe in considerazione se gliele portassi tu. Posso solo tentare, disse Roger, ma temo che non ci guadagnerai molto. Non mi aspetto granché, solo un espediente, devo ancora farmi un nome. Sarei contento di un centinaio. Se avessi 100 sterline mi metterei a fare qualcosa. Potrei mantenere me stesso e, ahimè, grazie alla mia scrittura, nel frattempo studiare legge. O male che vada, 100 sterline ci porterebbero in Australia. In Australia? Osborne, cosa potresti fare laggiù? E lasciare mio padre? Spero che non otterrai mai quelle 100 sterline, se questo è l'uso che intendi farne. Spezzeresti il cuore dello Squire. Forse una volta, osservò Osborne cupo, ma adesso non più. Mi guarda storto. Evita la conversazione con me. Lasciamo perdere il mio modo di notare e di sentire questo genere di cose. È proprio la mia sensibilità nei confronti di ciò che vedo a darmi la facoltà che ho. E mi sembra come se il mio pane e quello di mia moglie dipendessero da questo. Presto ti accorgerai da solo di quali sono i rapporti tra me e mio padre. Roger se ne accorse subito. Il padre era scivolato nell'abitudine di tacere durante i pasti. Un'abitudine che Osborne, che era tormentato e ansioso a sufficienza di suo, non aveva tentato di cambiare. Padre e figlio sedevano insieme e si scambiavano con una certa cortesia tutte le frasi connesse all'occasione, ma per loro era un sollievo quando la compagnia si concludeva e si separavano. Il genitore a rimuginare sul suo dolore e sulla sua delusione, che erano profondi e reali, e sulla ferita che gli era stata infetta dal suo ragazzo, che era invece esagerata nella sua mente dall'ignoranza dei veri passi che Osborne aveva compiuto per raccogliere il denaro. Quando avevano stipulato il loro accordo, laddove i prestatori avevano calcolato le possibilità di vita o morte di suo padre, Osborne aveva solo pensato a quanto velocemente, quanto facilmente avrebbe potuto ottenere i soldi necessari a liberarsi dalle urgenti pretese di Cambridge e a metterlo nelle condizioni di seguire Aimée a casa sua in Alsazia e di sposarla. Al momento Roger non aveva mai incontrato la moglie del fratello, anzi, aveva ricevuto la piena confidenza di Osborne solo dopo che tutto ciò in cui il suo consiglio sarebbe stato utile era stato già deciso. E ora, in quella separazione forzata, tutti i pensieri di Osborne, sia la parte pratica che quella poetica della sua mente, correvano alla mogliettina che trascorreva i suoi giorni solinghi in una fattoria, domandandosi quando il suo sposo sarebbe tornato la prossima volta. Con un'idea così pregnante in testa, non c'è forse da meravigliarsi se inconsapevolmente il giovane trascurava suo padre. Ciò non di meno era una circostanza triste di cui in seguito si sarebbe pentito. «Posso entrare a fumare la pipa insieme a voi, signore?» chiese Roger la prima sera, spingendo dolcemente la porta dello studio che il padre teneva socchiusa. «Non ti piacerà», replicò lo squire, trattenendo la porta contro di lui, ma parlando senza severità. Il tabacco che uso io non piace ai giovani. Meglio che tu vada a fumarti un sigaro con Osborne. No, voglio stare con voi e posso sopportare anche il tabacco forte. Roger si spinse in avanti e la resistenza che gli si opponeva cedette lentamente. I tuoi abiti puzzeranno. Dovrai chiedere a Osborne le sue colonie per profumarti, disse lo squire con una smorfia, allo stesso tempo porgendo al figlio una pipa corta ed elegante con il bocchino d'ambra. No. Voglio una pipa d'argilla. Insomma, padre, pensate che sia un bambino e che debba rassegnarmi una raffinatezza come questa? Protestò il giovane, scrutando l'incisione sulla pipa. Lo squire fu molto compiaciuto, ma decise di non dimostrarlo. Disse solo: Me l'ha portata Osborne dalla Germania 3 anni fa. E poi, per un po', fumarono in silenzio, ma la compagnia offerta volontariamente dal figlio era molto consolante per lo squire, per quanto non venisse proferito verbo. La prima frase che egli disse rivelò la direzione dei suoi pensieri. Infatti le sue parole erano sempre un veicolo trasparente, attraverso cui era possibile vedere la corrente. In 3 anni la vita di un uomo subisce molti cambiamenti, ho scoperto. E preso un'altra boccata dalla sua pipa. Mentre Roger cercava una risposta da offrire a questa verità lapalissiana, lo squire smise un'altra volta di fumare e disse: Ricordo che quando ci fu tutto quel baccano a proposito della possibilità che il principe di Galles venisse nominato reggente, lessi da qualche parte di lei sul giornale che i re e i loro eredi non vanno mai d'accordo. Allora Osborne era un ragazzino, usciva come a cavallo su White Surrey. Tu non ti ricordi il pony che avevamo chiamato così? Me lo ricordo. Ma allora pensavo fosse un cavallo alto. Questo perché tu eri piccolino, capisci? Allora nelle stalle avevo 7 cavalli, senza contare quelli della fattoria. Non mi ricordo di aver avuto una sola preoccupazione allora, eccetto. Lei è sempre stata delicata, lo sai. Ma Osborne era un ragazzino così bello. Era sempre vestito di velluto nero. Era una frivolezza, ma non dipendeva da me. E andava bene, ne sono certo. Anche adesso è un bell'uomo, ma il sole è sparito dal suo viso. È molto angosciato per via del denaro e dell'ansia che vi ha causato, commentò Roger, dando piuttosto per scontati i sentimenti del fratello. Lui no, lo contraddisse lo squire, togliendosi la pipa dalla bocca e sbattendo sul focolare esterno il fornello con forza tale da romperlo. Ecco, ma pazienza, dico. Lui no, Roger, non è affatto in pensiero per i soldi. È facile ottenere denaro dagli ebrei se si è il primogenito o l'erede. Quelli chiedono semplicemente: quanti anni ha vostro padre? Ha avuto un colpo o un attacco? Ed è tutto sistemato su due piedi. E allora vengono a gironzolare intorno alla tua casa, su e giù per i tuoi boschi e per le tue terre. Non parliamo di lui. Non fa bene, Roger. Io e lui siamo in discordia e ho l'impressione che solo Dio onnipotente potrebbe mettere a posto le cose. Ciò che mi rende così ostile con lui è il pensiero di come l'abbia addolorata alla fine. Eppure c'è tanto di buono in lui. È così sveglio e intelligente se solo applicasse il suo ingegno alle cose. Ora, tu sei sempre stato lento, Roger. Tutti i tuoi maestri lo ripetevano. Roger rise brevemente. Sì, mi ero guadagnato un soprannome a scuola per la mia lentezza, disse. Non importa, lo consolò lo squire. A me, no, di sicuro. Se fossi stato intelligente come Osborne, là. Ti saresti occupato solo di libri, di scritture e forse come lui avresti trovato noiosa la compagnia di uno squire zoticone come me. Però direi che ti tengono bene in mente a Cambridge, riprese dopo una pausa, da quando hai ottenuto quel bel risultato. Me ne ero quasi dimenticato. La notizia è arrivata in un momento così doloroso. Beh, sì, sono sempre orgogliosi del signor Wrangler dell'anno lì a Cambridge. L'anno prossimo devo abdicare. Lo squire rimase seduto a scrutare i tizzoni ardenti, tenendo ancora in mano l'inutile cannello della pipa. Alla fine disse a voce bassa, quasi inconsapevole di avere un ascoltatore: Quando ero a Londra, di solito le scrivevo e le raccontavo le novità di casa, ma ora nessuna lettera può raggiungerla. Niente può raggiungerla. Roger si alzò. Dov'è il pacchetto del tabacco, padre? Lasciate che vi riempia un'altra pipa. E dopo averlo fatto, si chinò su di lui e gli accarezzò la guancia. Lo squire scosse il capo. Sei appena tornato a casa, ragazzo. Non mi conosci. Non sai come sono diventato. Chiedi a Robinson. Non voglio che chiedi a Osborne. Lui deve tenerlo per sé. Ma chiunque dei domestici ti dirà che non sono lo stesso uomo, che mi infurio con loro. Un tempo ero considerato un buon padrone, ma ora è tutto finito. Osborne, una volta ero un ragazzino. E lei una volta era viva e io una volta ero un bravo padrone, un bravo padrone, sì. Ora è tutto finito. Prese la pipa e ricominciò a fumare e Roger, dopo qualche minuto di silenzio, iniziò una lunga storia su alcune disavventure capitate a un tale di Cambridge sul terreno di caccia e la raccontò con tale umorismo che lo squire fu indotto a una sonora risata. Quando stavano per andare a dormire, il padre disse a Roger: Bene, abbiamo avuto una serata piacevole, almeno io, ma forse tu no, perché so di essere ormai una misera compagnia. Non so quando io abbia trascorso una serata più felice, padre, disse Roger. Ed era sincero, anche se non si preoccupò di scoprire quale fosse la causa di quella felicità.